Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 7 maggio, buongiorno e bentornati a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla al carcere e alla cittadinanza. Do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me, buongiorno. Ben ritrovata Caterina e buongiorno a tutti e a tutti. Dicevo per l'appunto su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Oggi, facendo sempre un po' il vostro redattore sociale, parliamo di detenzione al femminile, le donne e il carcere, intervista con Sandro Libianchi, lo leggo da lavocedeimedici.it, e perché questa è proprio un'intervista fatta a Sandro Libianchi, presidente dell'associazione Conosci, che è il coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane. Perché c'è un approccio radicalmente diverso tra detenzione femminile e detenzione maschile. Intanto anche per la tipologia dei reati commessi dalle donne, che è chiara espressione, dice questo medico, di un percorso di marginalità che spesso poi segna le vite di queste donne. E è stato chiesto al dottor Libianchi, al presidente dell'associazione Conosci, quale condizione vivono le donne detenute e che numeri ha questo fenomeno. E volevo raccontarveli. Innanzitutto, le donne detenute rappresentano una percentuale a livello internazionale in tutto il mondo, quindi molto bassa rispetto a quella maschile, circa il 5-6%, fino a un massimo del 10%, per esempio negli Stati Uniti. In Italia invece siamo attorno a poco più del 4%. E gran parte di queste donne sono straniere e nel nostro paese sono presenti solo 8 istituti che hanno presente la sezione femminile, oltre a una cinquantina di piccole sezioni femminili all'interno delle carceri maschili. A questo punto, Caterina, mi viene di pensare una cosa. La maggiore presenza maschile negli istituti penitenziari ha come conseguenza che forse gli istituti penitenziari siano più a misura d'uomo piuttosto che a misura di donna, o sbaglio? Sì, infatti, come dice il dottor Libianchi, il concetto stesso di detenzione è stato sempre più rivolto alle esigenze di custodia e sicurezza maschili piuttosto che femminili. E anche gli studi condotti storicamente sulle donne sono in questo senso molto scarsi. Inizialmente sono stati quasi tutti monopolizzati dal fenomeno della prostituzione, per esempio, e oggi invece si concentrano di più sul versante della salute mentale, sul consumo di stupefacenti da parte delle donne. Questo dà proprio anche l'idea di quanta strada si debba ancora fare per dare un'assistenza maggiore alle donne detenute e ai loro bisogni. Senti, riallacciandoci anche un po' al discorso che avevamo fatto ieri, a proposito di genitorialità in carcere, e soprattutto di maternità in questo caso specifico, che tipo di situazione c'è oggi? Per l'appunto, come raccontavo ieri, sono 2 le case protette per donne detenute in Italia. Abbiamo parlato della casa di Leda e della casa protetta di Milano, e sono soltanto 5 gli ICAM, gli istituti per la custodia cautelare, quindi siamo a 7 strutture. E l'unico carcere interamente femminile in Italia è la casa circondariale di Rebibbia, una costruzione degli anni 40, dunque di concezione abbastanza antica, e ciò che la distingue dagli altri luoghi di detenzione è la presenza di un nido penitenziario, una sezione dove vengono collocate le mamme con i bambini al seguito, e quindi uno spazio attrezzato per far convivere i minori con le loro mamme. Però, come dicevi tu, il tema della genitorialità in carcere si sente tantissimo. E pensate che la legge permette ai bambini di stare con le mamme e non con i papà, e quindi addirittura è molto penalizzata la paternità all'interno del carcere. Ci sono dei papà che non vedono i figli per veramente tanto, tanto, tanto tempo. E infatti quindi la latitanza dei padri detenuti nei confronti dei figli e della famiglia è maggiormente avvertita anche da parte della società esterna, insomma. E nel mondo sono stati calcolati tra i 7 e i 9 milioni di bambini di fatto reclusi perché vivono in carcere con le loro mamme. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Parlando un attimo del mondo del lavoro, secondo te che cosa vuol dire per una professionista donna lavorare in carcere, tenuto conto anche appunto della realtà di cui hai parlato fino ad ora? Ma guarda, ti ringrazio per questa domanda che mi dà anche motivo di ringraziare una persona detenuta, una donna che mi ha scritto, è una donna che è altamente professionalizzata, faceva un lavoro di alto livello e poi si è ritrovata in carcere a svolgere un lavoro sempre comunque anche di alto livello, perché la donna professionista, magari penalizzata sul lavoro all'esterno, proprio per questa carenza in carcere, riesce più frequentemente ad assumere incarichi importanti in questo contesto. E quindi anche secondo il dottor Libianchi, che ha dato questa intervista, dal suo punto di vista è un bene che la donna lavori all'interno del carcere perché questo permette di riequilibrare il numero di donne lavoratrici e dare una maggiore sensibilità sia nell'accoglienza che nella terapia. Bene, senti, restando sul femminile, la cantante di oggi è sempre Janis Joplin. Sì, con Cosmic Blues del 1969, che voglio veramente dedicare a questa detenuta che mi ha scritto e a tutte le detenute donne in Italia. Rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale sempre con la nostra Janis Joplin, siete su Liberi Dentro e siete ora con La finestra sul mondo di Antonella Cortese, dove oggi parliamo di animali, quindi di giraffe. Sì, oggi parliamo proprio di un animale emblematico dell'Africa, che è la giraffa, che in lingua Sindebele Zulu si chiama Ndlamiti. Scusate se l'ho pronunciato male, ma ci provo. E che significa più in alto degli alberi, ed è uno degli animali più iconici del continente africano ed è il più alto della terra. Pensate che può raggiungere i 6,5 metri di altezza, quasi il doppio di un elefante, che già di suo è alto. Vi dicevo che è un animale endemico dell'Africa, vuol dire che non è presente in natura, in nessun altro luogo del mondo. Però, la giraffa oggi corre il rischio di estinguersi a causa della riduzione dell'habitat. La giraffa, intanto, è un artiodattilo, cioè un mammifero il cui peso del corpo grava sul terzo e quarto dito. Altri artiodatteri sono l'ippopotamo e il cinghiale, per esempio, ed è di eccezionali dimensioni. Può raggiungere la tonnellata di peso nelle femmine e superare i 1200 kg di peso nel maschio. Ed è l'unico animale nel suo genere con un mantello a chiazze irregolari, che ovviamente differisce da specie a specie, ma anche da individuo a individuo. Quindi è come se fosse un'impronta digitale questo manto che hanno. E ovviamente, come sapete, è un erbivoro e la cosa sconcertante è la lunghezza del suo corpo e anche il peso, anzi, soprattutto del suo collo. Infatti, solo il collo può pesare 200 kg. Ovviamente gli consente di raggiungere le cime più alte. Una domanda proprio magari banale, come fa allora questo animale, la giraffa, a sostenere un collo così pesante, 200 kg di collo? Sì, è un collo eccezionale, che però è costituito di sole 7 vertebre, come noi. Cioè, praticamente noi e le giraffe abbiamo lo stesso collo. C'è un problema di dimensioni, ovviamente. È molto diverso quello della giraffa perché è molto più grande per sostenere un peso che in realtà è piccolo, perché la testa della giraffa non è così grande. E le zampe invece sono eccezionalmente lunghe e sottili che permettono all'animale anche di compiere lunghe falcate e di raggiungere anche una certa velocità, anche se a noi la giraffa sembra sempre lenta e pacifica. E, tra l'altro, prima vi parlavo delle macchie, che consente alla giraffa di mimetizzarsi benissimo, tant'è che a volte è invisibile anche a pochi metri di distanza. E, le giraffe, lo sapete, hanno due cornine sulla testa, costituite da protuberanze ossee rivestite di pelo e pelo, ma i maschi in realtà ce n'hanno una in più, una proprio occipitale, che è meno pronunciata de delle altre. Ma la cosa spettacolare è la lingua. La lingua della giraffa è blu ed è lunga mezzo metro ed è capace di afferrare e manipolare qualsiasi tipo di foglia acuminata, anche con le spine. Insomma, la giraffa sa nutrirsi come nessun altro animale. Quindi abbiamo parlato delle cornine della giraffa, la sua lingua, le sue gambe, il suo collo, manca solo il cuore, deve avere un cuore veramente potente per una struttura corporea del genere. Eh sì, pensate che la giraffa ha veramente una tale altezza per cui deve avere un sistema circolatorio veramente efficace ed efficiente. In più il cuore pesa 12 kg. Nonostante, diciamo, la fama di avversari formidabili, anche per i più potenti predatori, le giraffe sono animali in realtà molto, molto miti. Infatti nel nostro immaginario la giraffa è dolce, è carina, è lenta, è mite. E in realtà è abbastanza così, oltre ad essere molto silenziosa. In effetti emettono pochissimi suoni udibili all'uomo e svolgono una vita gregaria, nel senso che stanno insieme quando ce n'è bisogno, però non sono, diciamo, non hanno legami stabili. E, ogni tanto qualche individuo si può unire appunto alla società oppure vivere una vita solitaria. E allora, inframmezzando la nostra mattinata con un brano musicale, lanciamo. Lanciamo un brano di un duo sudafricano che si chiama Mafiki Tsolo. La canzone si chiama Ngeke Balunge. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo con Marina Kuliak per parlare con te di un tema, diciamo, un po' storico e culturale, anche legato ai tuoi paesi di origine, perché tu sei mediatrice culturale al carcere della Dozza, madrelingua croata. E parliamo oggi di un'opera letteraria, Il Ponte sulla Drina, a firma del grandissimo Ivo Endrich, scritto tra il 42 e il 43 e pubblicato nel 1945. E Ivo Endrich è stato anche premio Nobel per la letteratura per la seguente motivazione che mi colpisce molto, cioè per la forza epica con la quale ha tracciato temi e descritto destini umani tratti dalla storia del proprio paese. E quindi, Marina, con te, se puoi un pochino raccontarci, la trama di questo libro per invogliare anche chi ci ascolta a leggerlo e perché il Ponte sull'Adrina, allora. Sì, Caterina, proprio così. Il Ponte sull'Adrina è un romanzo storico dove sono descritte 24 storie, ci sono tanti personaggi storici e immaginari non collegati tra di loro. L'unica cosa che li collega è il Ponte sull'Adrina. Il ponte è praticamente la spina dorsale di questo romanzo. Si trova a Visegrad. Visegrad è una cittadina nella parte sud-est della Bosnia. E proprio là, nel 1566, il gran visir Mehmet Pasha Sokolovic ha ordinato la costruzione di questo ponte. La prima parte del romanzo parla proprio della costruzione del ponte, che è durata 5 anni. Sangue e sofferenza segnano questi anni, e qui troviamo per esempio la storia di Radislav, che è il maestro che costruisce il ponte, però di notte va a distruggere quello che è stato costruito. Alla fine lui viene impiccato e lasciato sul ponte come esempio agli altri. C'è anche storia di fatta che il giorno del suo matrimonio, visto che non è stata contenta con la scelta del futuro marito, si lancia dal ponte. La seconda parte del romanzo parla sempre del periodo turco, periodo feudale. Qui troviamo la storia di Milan che ha il vizio di gioco d'azzardo e una notte gioca sul cancello del ponte con una persona non conosciuta e perde tutti i suoi averi. Terza fase parla già del periodo austriaco che va dal 1878 al 1914. È il periodo di annessione della Bosnia, periodi di guerre balcaniche. Qui troviamo le storie di quattro ragazzi giovani che sono Nikola, Herak, Stikovic, Galus, che si incontrano ogni giorno al ponte e parlano della situazione nel paese, della politica, come si potrebbero migliorare le cose al meglio. Però c'è anche un altro personaggio che è Ali Hoxha, che è molto pessimista. Infatti la quarta fase del romanzo finisce con l'anno 1914, con l'uccisione di Franz Ferdinand. Molti serbi fuggono in Serbia. Quelli che rimangono a Visegrad pensano di essere più fortunati, ma alla fine, visto l'arrivo della prima guerra mondiale, l'epidemia di tifo, dovranno scappare anche loro. Quindi Ivo Andrić è soprannominato Tolstoj jugoslavo. Lui è veramente bravissimo nell'analisi dal particolare all'universale, e penso che tutti noi ci possiamo rivedere in uno dei personaggi che c'è nel romanzo, nella visione del mondo che c'è. Esatto, e come dici tu, tanti personaggi, sia storicamente esistiti ma anche inventati, che si radunano intorno a questo ponte sull'Adrina nella città di Visegrad, questa città bosniaca, e però sembra che l'unico vero protagonista sia il ponte. E allora ti chiedo però anche quali sono le ambiguità di questo ponte. Eh sì, praticamente il ponte unisce due sponde di questo fiume Drina. Da un lato c'è la Kasaba, dove vivono, il centro storico di Visegrad, dove vivono musulmani, e c'è il sobborgo, dove vivono cristiani, ebrei. Unisce l'est e ovest, unisce la Bosnia, l'impero ottomano con la Serbia, unisce l'oriente e occidente, passato e il presente, unisce le generazioni e i popoli. Praticamente il ponte è il cuore pulsante di Visegrad, questa città dove vivono tante etnie, tante religioni, musulmani, cristiani ortodossi, cristiani cattolici, ebrei, però questo ponte li unisce perché è di tutti. Però il ponte è simbolo di una cosa indistruttibile, immutabile, superiore alle vicende umane. In un certo senso il ponte è l'opposto del destino umano, che è transitorio rispetto alla costruzione in pietra. Chiarissimo. E cosa possiamo lanciare? Un brano musicale dalle tue terre? Ecco, il gruppo Magazine con la canzone Suse Biserne, che tradotto letteralmente significa lacrime di perle. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, siamo sempre con Marina, mediatrice culturale al carcere della Dozza e proprio allacciandomi a quello che ho appena detto, sei mediatrice culturale, quindi anche tu sei come una sorta di ponte linguistico, no? Tra le persone che vedi e fai tramite tra i detenuti, in questo caso le loro famiglie e il mondo esterno. E volevo chiederti se ti va di raccontarci cosa si prova a essere anche per te questo veicolo di trasmissione. Eh sì, io lavoro qui dal 2009, sempre allo sportello informativo e di mediazioni culturali in carcere. Praticamente carcere di Bologna, certamente è un carcere grande che, con più di 700 detenuti, con circa 50 paesi di provenienza diversi, quindi certo che la lingua diventa la chiave indispensabile per garantire i principali diritti che sono contatti con la famiglia, diritto di lavorare, diritto di avere una rappresentanza legale, diritto di esercitare il proprio credo. Però noi come mediatori culturali non ci possiamo solo soffermare sulla lingua, perché sennò saremo solo degli interpreti. E quindi ecco, farei il paragone tra il carcere e questo ponte sulla Drina, il ponte che è una costruzione in pietra e il carcere che è una costruzione in cemento armato, che unisce anche qui tante etnie, tanti popoli, tante religioni diverse, e noi come mediatori culturali lavoriamo nella loro avvicinanza, nella loro convivenza, perché siamo sempre straniero di qualcun altro e bisogna imparare a vivere insieme per combattere il razzismo. Quindi non è un lavoro facile. Guarda, ti ringrazio tanto per tutto quello che hai detto. Penso che le tue parole avranno una risonanza anche molto forte da questa costruzione, come dici tu, in cemento armato, ma anche nella nostra città che ascolta, che vi ascolta e che vuole sapere, conoscere queste cose. E allora tocca a te lanciare l'ultimo brano di oggi. Allora, il gruppo è Srebrna Jabuka, Mela Rossa, con la canzone Neka Kosprolječa, che significa letteralmente in qualche modo dalla primavera, e siamo proprio in primavera. Nekako sproljeća uvijek meni to luda. Neka čežnja dana, tiha mudrost davna, svu gusta a mí stare con vere, la perone, sudine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigareci pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je boja crno ponoćna. Moji koraci ma su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano čelje, za usnama tvojim. Sam sam ti odludila. Ben ritrovati, abbiamo appena ascoltato Marina Kuljak, mediatrice culturale presso il carcere della Dozza di Bologna, e ci saranno tante altre figure di mediatori che parleranno su questa radio, su questo programma televisivo, quindi è un invito sempre a seguirci, ad ascoltarle, ad appuntarvi anche delle domande da fare anche da parte della città e da chi ci ascolta anche dalle camere detentive. Lo potete fare scrivendo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure scrivendoci per posta, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Ma non dimenticatevi le nostre rubriche del giorno, oggi parliamo di, e oggi parliamo di, con l'equipe sanitaria del carcere della Dozza di Bologna, una bella pillola, con, e poi a seguire una pillola di spiritualità islamica e cultura araba, oggi che è venerdì. Ma anche il sabato e la domenica non vi abbandoniamo, perché ci saranno sempre rubrica a cura del rinnovamento nello spirito, il sabato Teatro del Pratello e una rubrica dedicata al buddismo, mentre la domenica la rubrica a cura del CPA di Bologna, il Centro per l'Istruzione degli Adulti, e la solita bellissima rubrica a cura del FOMAL. Buona giornata a tutte e tutti, buon fine settimana e seguiteci sempre su Liberi Dentro e Du Radio anche il prossimo lunedì. Grazie ad Antonella Cortese e a Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate. Arrivederci. Liberi Dentro e Du Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.